questa ragazza con gli occhi storti, va bene, gli occhiali grossi, non ci vede niente. Bene oggi. Ha detto che Marco non la conosce mia figlia, ha detto guarda se vai lì è una con gli occhi storti, con gli occhiali, brutta. E Marco mia figlia ne ha occhiali, te lo sto dicendo apposta. Poi c'era un milione in chiwi, vabbè, già ce n'è qualche un'altra bellina, ma non è che Roma, per carità. Pure in Vega. Perché c'è mia figlia, ma mi sembra che anche lì era una delle migliori. Ecco, guarda, Grazia non ti dico molto, ma Ilaria ha lavorato al McDonald's per 8 anni. Quando è entrata Ilaria, Grazia era già in uscita, se ne stava già andando, quindi immaginate tu quanti anni è che manca da lì. Aia. Ok, cosa volevo dire? Ah, oggi via WhatsApp mi ha contattato Simona, mi ha detto stranamente, mi dà nulla, ha detto ah, scusa Marco, non avevo riconosciuto che eri tu. Mi è sembrato strano che mi abbia contattato dopo tanti giorni. E ho chiesto come stava il padre, infatti poi mi ha ringraziato dell'interessamento. E gli ho raccontato appunto che abbiamo rotto i ponti con l'ufradetto, anche lì aveva bisticciato, infatti mi ha detto che era 6 mesi che non si parlavano anche loro, forse per quella storia della la pizzeria, no? Che lì era la cassa e non ha avuto niente. E dice il carattere di suocia, quindi le è dispiaciuto però, le è dispiaciuto, è peccato, mi dispiace. E vabbè, bene bene, così anche lì si è fatta sentire, dai, a WhatsApp. Di mano, no, io sono disoccupato, il poco che ho lavorato sempre in nero, capito, da quelli schiavisti, 40 zinco. E anche buttati nel cesso ce li ho questi 45 anni. 45 anni, caspita, un ragazzino sì. Ne frego 11. 11 ne frego, e oggi. Pagadù, io voglio una voglia di 30 anni. Io ne ho 56 fatti, quindi. Diselo Claudio, buonasera, Gianni Poker Bassi dalla mia. Ah già, buonasera, ben ascoltato, no? Perché stai fischiando? Cappa Roggero, mio figlio mi ha manovrato un po' di roba. Adesso hai messo a posto tutto. Gaielle, la vecchiaia Carogna, siamo in discesa oggi, tra 3 anni, salutiamo l'azienda, ce ne rimaniamo a casa. Guarda, io sono giovanissimo, dentro e fuori burro, quindi no fin di, perché io no, sto benissimo, alla grande, anche se ci sono gli anni, ma non mi posso lamentare. Rispetto a Marco io risulto molto più giovane, capito? Rispetto a Marco. È entrato Gianni Pokerdassi. Avanti Marco, lo senti, sì? Caspita, è forte, forte, però mai sentito il nome. Io sino a poco tempo fa solo la barra mobile. Cappa, ben sentito. Io me ne sento 70, Eugenio, me ne sento 70, sono un vecchio dentro. Che va di più giovanile, io sono più vecchio. E caspita, io mi ricordo quando nell'inizio dell'estate dell'84, sarà stato giugno dell'84, quando sono entrato al baracchino col portatile la prima volta, avevo 13 anni, mamma mia, quanto tempo è passato, una vita è passata. Buonasera, io sono un camionista, positivo, tuttora, ancora per un bel po' spero, no, ancora motrice, articolato credo fra poco. Sicuramente lo conosci oggi. Gianni, io scendo lì dove sei tu, quindi già vi conoscete, già deve essere lui. Oia, oia, Marco, Marco, ma il problema tuo è la vita sedentaria che fai. Quello è molto, molto brutto, stando a casa, non uscendo, capito? Non avendo quelle ore, quegli spazi, come io esco alle 6 la mattina, anche se entro alle 7, esco alle 6, vado a fare colazione, leggo il giornale, due chiacchiere con gli amici mattutini del bar, e poi si parte al lavoro, ho tutta la mattinata impegnata, sino alle 2, ma sempre in movimento, capito? Sempre in movimento. E poi arrivi a casa, pranzi, e il pomeriggio me lo dico, chiaramente a rilassarmi, non sto in giro, non vado da nessuna parte. Mi riposo, un po' di radio, sto qua, computer, insomma le solite stronzate, ma comunque rilassamento totale la sera, vai. Non è che vai al bar a bere, a fare, no, me ne sto a casa, io sto a casa, sono sereno, tranquillo, sempre pulito e ordinato, vero Gianni? Positivo, è sempre così, deve essere Claudio. Non si può stare buttato, c'è un collega, manco a pranzo rientro, esci di Dibrani e ci vai a maniera rubare, finisce alle 3, alle 4, a tazza in mano, ma come fai, ma famiglia ne hai? Ah, non te ne ho, vado a lavorare, vado a casa io, come timbro alle 2:05, messaggio a mia moglie, 20 minuti e sono a casa, mi arrivo già tutto pronto. Il mio pranzo, perché loro pranzano prima, a volte mi aspetta, e poi basta. Guardo un po' di TV, una sigarettina, mi sdraio, fino alle 4:30 alle 5, e poi mi siedo qua, mi scambiare due chiacchiere. Penso che sia una normalità un po' per tutti. Vai oggi. Vai, coccate, vai. Non hai mai visto tu di chi sei così. Io quando ero più giovane già la bevevo, una sambucchia ogni tanto, adesso nulla, ho mollato completamente, ma già da 7-8 anni forse, anche 10, ho mollato completamente tutto, il mio bicchiere di vino a pranzo non deve mai mancare, è a cena, boh, dopodiché fuori, non so mai cosa vuol dire bar, non mi fermo mai da nessuna parte, anche perché non è più fattibile, non è più come prima. L'acqua, ho la mia bottiglia dell'acqua, col frigorifero, col frigorifero in macchina, e si beve acqua, e boh. E ieri, oramai, con queste leggi, ho già, manco un bicchiere di birra tipo in becca, se ti fermano ti ripiglia la patente, ci hai rovinato. Vai già. Claudio, così è per tutti. Noi usciamo presto e torniamo tardi, però la prima cosa è rientrare a casa in fretta pure. Positivo, ma quando ti svegli sei tutto sudato però, eh. Vai, ma perché tu bevi tossi? Io non ne tocco proprio. Non ne tocco proprio, no, non fa, per me è diverso il lavoro, non fa. Non fa, non fa, non fa, capito? Dipende dal tragitto che fai, io mi sposto molto da un paese all'altro, sempre viene i carabinieri. No, non fa. Non si può fare oggi, la verità non si può fare. Non si può fare. Quando sono fermo, come capita d'estate, mi fermo in un impianto a relazionare qualcosa, a fare qualcosa, allora se c'è un bicchiere di birra bella fresca me la posso anche bere, ma guidando non fa, non fa, perché è un rischio, capito, da un paese all'altro, anche se sono tutti vicini i paesi che faccio io, dal Badesi a Trinità, da Trinità a Paduletta, Marinella, Vignola, cioè sono tutti lì, però c'è sempre da un bivio a bivio, anche stamattina c'erano i carabinieri a bivio 30, quindi i Badesi mi salutano perché mi conoscono, sono tanti anni che faccio sempre quella strada, però è sempre un rischio, trovi quello che non ti conosce, ti ferma, ti va dal cortezze e hai fatto poker dash hai fatto, vai Marco. Immaginati se ogni paese ti offrono qualche chilo di birra, no? È buffa, è buffa. Tre bicchieri di birra a paese. A fine mattinata hai fatto tilt, hai fatto 13. Invece a Sassari, dove prima vedevo controlli puntualmente, stradale, carabinieri, non vedo più controlli, né a Ottava, né a Alipunti, né girando via le Polo Torres dietro il cimitero, nulla, non vedo più controlli. Non so se sono io che sto scendo meno, forse, ma non vedo più controlli di una volta. Una volta ti fermavano, ti controllavano, che messo anche le gomme, se erano profonde, lo scarico della moto, adesso niente, non vedo più niente. Vabbè, un po' è meglio, ma in realtà io sono quasi sempre in regola, non... la cintura la metto sempre, la mettevo anche quando non era obbligatorio, perché almeno se mi schianto non mi sbatto le corna al vetro. Poi ci vorrebbero più controlli. L'altro giorno ho visto un tipo con la targa cancellata, cioè la targa era talmente sbiadita che non la leggevi a 5 metri, roba fuori testa, gente con gli abbaglianti, con i fari montati al contrario, praticamente che l'abbagliante fa da abbagliante, roba da matti. Bene, comunque qua c'è qualcosa che non va, qua non si mangia, sento il silenzio, si è addormentata mamma, aspetta che vado a controllare. Sono io, digiuno, mi non ho pranzato ancora. Io. Ehi, sono controllo. Allora in realtà io sono arrivato già, un mio collega. Della scelta della circolazione. Ma lo stipendio è arrivato a Tron. Sono il 27 oggi. Perché? No, ho scelto la circolazione, ed era scaduta, era già nei 15 giorni, ho detto fatti la circolazione, mi secondo chi trovi è un casino. No, già è dentro, aspetto il 27 e poi la faccio. Beh, appena lo stipendio si è dimenticato di fare la circolazione alla macchina. Questo perché non c'erano controlli. Tutto lavoro nel rettilineo di Marrizza. Aveva i carabinieri dietro, lui come se niente fosse, tranquillo, camminando, non stava neanche correndo. Prima di deve tornare, lo sorpassano, le mettono la paletta e lo fermano, l'hanno fatto entrare lì proprio nello spazio dove c'è il bar deve tornare, mi pare sia. Cosa gli ho fatto? Lungamente 80, tranquillo, la sigaretta in bocca. Hanno sorpassato, lampeggiante acceso, paletta, e fatto entrare nel piazzale. La prima cosa che gli hanno detto, non patente di Bretton, ce la fa vedere l'assicurazione. Quindi tu figurati, erano dietro, hanno preso il numero di targa, c'erano il computer in macchina e hanno guardato se la macchina era assicurata. E lui gli ha detto, sì, ce l'ho, però è scaduta l'assicurazione, devo farla domani, guardi. No, lei non ha proprio assicurazione, ha superato anche i 15 giorni. Gli hanno sequestrato la macchina e gli hanno messo 1.000 euro di multa. Chi so chi non vi so controlli. Così è. Oggi guarda, c'era la Sassari Uti, era infestata non solo di non esserci controlli tra stradale, carabinieri e tutte cose. Pieno. Così deve essere, perché quella è la strada della morte, la chiamo io, capito? Perché non può uno correre in quella strada, essendo cantiere, essendoci limiti di velocità, eccetera, eccetera. Cosa hai detto Gianfra? Sì, buonasera. Stavo chiedendo se lo sai come si chiama quel sistema, perché tu pensi che loro l'abbiano controllato così al volo? Io a quanto mi hanno detto so che, ma detto da... la gente dell'arma, so che sono dotati di computer a bordo e ti controllano mentre stai camminando. Poi se è vero, questo non lo so perché io non ho mai avuto la possibilità e spero di non averla mai di farmi fermare per queste stronzate, perché non esiste una cosa del genere. Allora è un sistema che hanno su quasi tutte le macchine già dal 2016, quindi dall'anno scorso. Si chiama sistema Mercurio, loro non devono fare niente, praticamente, insomma, la telecamera è sempre in funzione su tutte le auto che incontri, anche quando sono passo, quando sono nello schiavo, sia le carabinieri sia la polizia. Quando tu passi, automaticamente la telecamera ti guarda la targa, la confronta col server che c'è all'ania, e immediatamente dice attenzione se c'è un'auto che non va, se è rubata o qualunque altra cosa, le scatta l'allarme. Dopodiché c'erano tutte le informazioni possibili e immaginabili sul viratore e tutto, e per quello l'hanno fermato dopo un po'. Appena le sono arrivati i dati, l'hanno immediatamente fermato, anche se loro magari stavano chiacchierando a bordo, capito? Perché ha una tempestività allucinante, si è spaventato, ha detto qua, ha giunto i lampeggianti a fianco, paletta, e mi hanno fatto mettere freccia e mi hanno fermato subito, immediatamente. Ce l'avevo dietro una decina di minuti, praticamente si è accorto che ce l'aveva dietro, lui dal rifornitore di Marrizza, fino ad arrivare alla fine proprio del rettilineo, prima di arrivare alla fine del rettilineo. E l'hanno fermato, 1.000 euro di multa, dice che non ti hai fatto l'assicurazione, porca miseria, quindi erano passati 15 giorni più 2, ho detto tu già nei 15 giorni sei, secondo la legge, secondo la tua assicurazione sei coperto, ma secondo la legge no, perché l'assicurazione è scaduta, in più hai fatto passare 2 giorni dopo i 15, sei scoperto, tu macchina non dovevi toccare, capito? Veni a lavorare, 10 chilometri, ci hai rimesso 1.000 euro e gli hanno sequestrato la macchina, quindi ha pagato l'assicurazione, la multa e poi gli hanno restituito la macchina. Quindi conta due cose l'equità dell'assicurazione. Allucinante. Vai al giro. Quello è un buon segno oggi, non sei il primo che fa queste cose, capito? Non ti integrano e dimmi che è vero da bui, per come ti conosco io, che non sai mai cosa vuol dire tu prendere il bicchiere in mano. Uia, no, ma questo è una persona che ha in gamba, però hai preso lo stipendio, fa tira, no? Ci è proprio sfuggito di testa, non hanno voluto sentire niente, gli hanno chiamato per attrezzi, portato via la macchina in deposito. Sino a quando non ha pagato l'assicurazione, pagato la multa, macchina non ne ha visto, capito? Sì, anzi, mi ha detto che la multa l'ha pagata in due volte, la macchina gli hanno data lo stesso, sì. Ma è sempre un rischio, è un rischio, è un rischio, è un rischio. Questa cosa l'ho sentita così, ho detto, ma anche vanno i computer, li controllano, però la realtà è quella. La realtà è quella, c'è niente da fare. Bene, sono le 8:30, io vi saluto tutti, vi auguro buona cena, chiudo perché è tutto pronto, mia moglie mi ha già chiamato, quindi saluto Marco, ciao Gianni Poccherdassi, ben riascoltato, ciao di nuovo Gianfranco e ciao Eugenio. Do il cambio a Marco se c'è, altrimenti riprendi tu Gianni. Per me è QRT, a domani signori, buonanotte a tutti, vai Marco. Ehi, ciao Claudio, buona cena, io mi sto scaldando la roba, mi stava salendo un rutto, mi vi siete salvati. Ciao Eugenio, ciao Gianfranco, ciao a tutti, ci sentiamo domani ormai, da, ormai si è fatto tardi. Buonanotte anche agli ascoltori, ciao ciao. Ciao Claudio, buonanotte, alla prossima, ci sentiamo, ciao a tutti gli amici in ascolto, ciao ciao. Cappa, è ora di cena, No, la mia è già in mezzo d'opera, quindi li porta abbastanza bene i pesi, non è un problema. No, al porto no, io lavoro lì alla sosta di Olbia. Positivo, sto viaggiando lì dalle cave di zona, da Olbia, Ovilò, ai cantieri. Dai, buona serata a tutti, piacere avervi sentito e alle prossime. Ciao ciao, alla prossima. Ciao Eugenio. No, io mi riferivo alla città, che non vedo controlli, proprio città oppure lì Ponti, Ottava, per andare a Platamona, per andare lì, Poi capisco che più lontano nelle arterie principali i controlli ci sono, però in città, caspita, prima trovavo carabinieri a ogni angolo di strada o la stradale, adesso meno. Vabbè, meglio così, ma io sono tutto in regola, anzi sono abbastanza maniaco della legalità per quanto riguarda la macchina. Bene, detto ciò, buonanotte a tutti, dai, ciao ciao. Ciao Marco, buona colazione, credo, non so come pranzo, non so da fare. Comunque non ci sono perché ci sono moltissime telecamere da lì, fanno sempre la strada di sera, quindi la prima volta che avremo sì cosa fai, eccetera. Ciao, ci sentiamo. Ciao Giappla, ciao ciao. Eppure quello, ormai hanno una tecnologia che non si scappa più, secondo me vedono a distanza anche se è la cintura o no. Dipende da tipo di telecamera, sono collegato. Ciao! Ho trovato un Ciao Elio, appena c'è 5 minuti ti controllo la cosa.